Arnold? Penso di sì. Penso che intendesse Arnold. Non conosco altri Arnold. Con la voce. Il voice box è una voce, è una segreteria telefonica che avevamo attivato all'inizio per dare la possibilità a dei profani di quest'arte di cimentarsi in qualcosa, in un monologo, eccetera. E poi i migliori li abbiamo ospitati qui in studio. Ma ti parlo di tramvieri, di vetrinisti, di rappresentanti che amano la voce. Beh, la recitazione era carina, perché non è che venivano poi e andavano a recitare chissà dove. E perché l'avete soppressa? Eccolo là, grazie caro amico Dino, neanche ho dato i numeri che già voi li date. Sentite con quale voce ve lo dice poi. Vi ricordo comunque i nostri numeri, che conoscete perfettamente, per gli sms 349-238-6666. Invece per partecipare in diretta, se volete, sempre 800-2400-24, e tutti i nostri social attivissimi, lo sapete perfettamente ormai, sia la voce che il nostro rapporto quotidiano è declinata secondo dei social, di Twitter, di Facebook e quant'altro. Il primo momento si sta consumando, ma staremo insieme un bel po', insomma una quarantina di minuti, un bel po'. Mi guarda con aria, santo, c'ho una famiglia anch'io, e domenica è l'unico giorno che non si lavora, e io incastro i miei colleghi con questo bel sorriso, ma non potevamo non avere il grande Alessandro. Volevo far sentire Schwarzenegger, ma vorrei aprirci il secondo blocco con il grande Arnold Schwarzenegger e la voce che la racconta in maniera magistrale di Alessandro Rossi. Allora restate con noi, perché Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, Voice Anatomy, 14, 46 minuti e 58 secondi. Il grande Alessandro Rossi al mio fianco. Abbiamo aperto la trasmissione con il primo di una trilogia straordinaria interpretata da Liam Neeson e magistralmente raccontata in italiano da Alessandro Rossi, che era Io vi troverò, il primo, poi Taken 2 e Taken 3. Non si capisce per quale motivo tu chiami il primo Io vi troverò e poi il secondo cambi il titolo e lo lasci originale. Vabbè, magia del marketing. È vero che Io vi troverò 2 suonava malissimo. Ho capito, ma almeno tu dici ho visto il primo, vedo il secondo. Perché dovete Taken 2 se Taken 1 non l'ho visto? Tu sai che in Italia, meno male, non è per colpa del doppiaggio, l'abbiamo già declinata e raccontata, non è colpa nostra se l'inglese si sa meno, ma magari è colpa delle scuole che non lo insegnano a dovere. No, il nostro è soltanto una traduzione che può accompagnare le persone a gioire e godersi un buon film. Mi parlava prima Dino del grande Arnie, ovviamente si riferiva a Arnold Schwarzenegger, e allora io un momento di Terminator lo ascolterei. Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta. Dimenticato di dire per favore. La missione finisce qui. Io ti ordino di non andare. Ti ordino di non andare! Ti ordino di non andare! Ora capisco perché piangete. Ma io non potrei mai farlo. Comunque l'hai reso un attore migliore, possiamo dirlo? È uno di quei casi in cui se lo senti in originale che gli è rimasta quell'inflessione austriaca. Sì, fortissima. Per cui se fai il robot va bene in inglese, però tu l'hai ammorbidito quel tanto da non perdere quell'anima robotica, ma gli hai dato un'anima in più tridimensionale. Questo è uno di quei casi in cui si può dire, lo dico io, ma lo dice tanta gente, che si migliora con... Ma io non lo so, non... No, ma tu non devi dirlo tu, ovviamente. Non lo dico. Però un hasta la vista, baby, dimmelo. Hasta la vista, baby. Eccolo là. Guardate dall'altra parte del vetro come godono. Che bello, perché poi la radio è evocativa in questa. Cioè, non è più Alessandro Rossi, perché c'è la voce, ma è Schwarzenegger. La magia della radio è questa. Tu senti un po' di pioggia e dici, fa freddo, siamo nel 1860. E la gente viene portata in quel mondo magico come in un buon libro. La radio è un buon libro, si assomigliano moltissimo. Sono assolutamente d'accordo su questo. Ti piace il mondo, il mondo della voce? Però la radio, la radio è magia. Straordinaria, la radio è magia. Orson Welles l'ha scoperto prima di tutti e ci ha raccontato una guerra di mondi, ha fatto veramente morire, ha fatto subito capire come si può giocare con gli elementi nella maniera più intelligente. Allora abbiamo sentito anche Schwarzenegger, Liam Neeson. Qual è stato il tuo primo protagonista? Dove è stato lo sliding doors della tua vita nel doppiaggio? Sicuramente Rocky 4.

seguiti, inseguiti, sottolineati, riparlati, approfonditi, come riusciamo a fare sempre in questa trasmissione, o cerchiamo di dare il massimo. Alessandro, veramente ti ringrazio. Ci abbiamo un altro contributo? Che cosa? A Batman Begins, è vero, dove eri? È dove ero, il cattivissimo Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, sentiamoci e poi ci salutiamo. Assisterò alla totale autodistruzione di Gotham innescata dalla paura. Solo un ipocrita chiamerebbe vita ciò che questa gente ha. Criminali, disperati. Non è tra loro che un uomo dovrebbe vivere. La setta delle ombre è un baluardo contro l'umana corruzione da migliaia di anni. Abbiamo saccheggiato Roma, usato i topi per diffondere la peste, ridotto Londra in cenere. Ogni volta che una civiltà tocca l'apice della sua decadenza, noi torniamo per ridare l'equilibrio. Gotham non è impossibile da redimere. Dammi più tempo. C'è molta brava gente. Difendi una città talmente corrotta che ormai ci siamo infiltrati ad ogni livello nelle sue infrastrutture. E anche questo ce lo siamo ascoltato, arrivano tanti. Ma cosa vogliono questi sedicenti linguisti che odiano il doppiaggio? Bimbiri, bimbiri, bimbiri, fate gli intellettuali al vostro salotto, dice Andrea. Vabbè, è bellissimo. Alessandro, grazie. Grazie. Grazie della tua grande professionalità, della grande disponibilità e della tua sottile intelligenza, che non vuol dire poco, ma vuol dire grazie, ampia. Grazie, grazie tantissimo a voi. A tra poco con Brancucci's Family e tutto Disney ed anche degli attori e dei colleghi per telefono. A tra poco con Voice Anatomy. Grazie. Voice Anatomy. Bentornati signori, 15, 17 primi e 5 secondi, continuiamo il viaggio attraverso il mondo della voce, stavolta con il mondo dell'immaginario, di quello che ci ha fatto sognare tutti da bambini, e nessuno escluso, Walt Disney. Walt Disney è sinonimo della famiglia Brancucci perché? Perché Ernesto Brancucci, grande compositore, grande musicista, grande direttore d'orchestra, grande in tutto, grande anche d'età perché c'ha capelli più bianchi dei miei. Dall'altra parte, accompagnato da Lorena Brancucci, che scrive i testi delle canzoni della Disney, poi sapete quanto è importante, perché rimangono quelle proprio nell'immaginario collettivo, tuttora cantiamo quelle musiche in italiano, e Virginia Brancucci invece che dirige Virginia, sì, d'accordo, io guardavo lei, mi indicava l'altra, sì, Virginia, ho capito però, perché siamo qui in studio, siamo dislocati a 360 gradi, invece Virginia che dirige gli attori e li rende migliori. Allora Ernesto, sentiamo la tua viva voce, che tu non canti nei ciao, film. Ciao Pino, buonasera. Buonasera, sentiamo la voce ciao, di Virginia. Buonasera a tutti. E quella di Lorena. Ciao Pino, ciao a tutti. Benissimo. Scusate per la mia di voce, ma quando vieni a Voice Anatomy per la nota legge di Murphy ti viene la faringite e quindi questo è il risultato. Benissimo. Chiedo scusa, di solito non è così. Io chiedo scusa invece per la faccia, ma ringraziando il cielo siamo per radio e allora non c'è bisogno. Ernesto, come nasci tu? Piccolo, bambino? Sì, dunque. Come è nato il primo rapporto con la Disney? Io ho avuto la fortuna di cominciare a 16 anni a far parte dei cori di Nola Orlandi, se ti ricordi, 4 più 4, i cantori moderni di Alessandroni. Sì, sì, ho l'età giusta, ma anche i nostri ascoltatori. E con loro ho imparato a cantare nei cori. E mi è piaciuto moltissimo questo, per cui ho continuato tutta la vita a specializzarmi in questo, diciamo, poi quello che poi è diventato un lavoro. E quando si è trattato di fare con il maestro Carapellucci, che era una persona fantastica, che io ho avuto il piacere, ho avuto l'onore di seguire come coadiutore, collaboratore, abbiamo fatto tutti i film della Disney, che all'epoca erano molto pochi, erano uno l'anno circa. Certo, adesso sono un po' di più. Però qual è stato il primo film che... Credo Bambi o Biancaneve, Cenerentola. Ma quanti anni hai, Brancucci? Io ne ho 68. E che c'avevi, 6 anni quando hai fatto il primo Bambi? 15 anni. 15 anni io già? Io ho fatto 3 dei 7 nani. Ho fatto 3 dei 7 nani. Non si può sentire. Ma come sono stato Brancucci? Tu eri 3 dei 7 chi eri? Te li ricordi i nomi? No, assolutamente. Sicuramente Brontolo, perché dato il carattere mio, sicuramente avrò fatto Brontolo. Non è vero, sei una persona molto disponibile. E voi, vostro padre, vi cantate? Cioè, essere la voce di tre dei sette nani non è male. Come padre, voi avete avuto dei problemi molto importanti da giovane, da piccole. Cambia analisi ancora oggi. Tuttora. Per cui avete deciso di seguire le orme paterne proprio per cercare di uscire fuori da questa bipolarità, certo. Tripolarità di papà. Perché c'è gente che diafona, c'è gente triafona, lui è proprio tri... E tre dei sette nani. È tripolare, tre dei sette nani, questa cosa rimarrà per sempre. Al mio ogni volta incontrerò. Ma a proposito di Disney, c'è l'ultima grande fatica, l'ultimo grandissimo, forse il più grande successo degli ultimi anni della Disney, che è Frozen. Sì. E Frozen significa anche un caro amico, collega che ho avuto il piacere di chiamare alla prima puntata, e mi piace riaverlo adesso dopo questo bellissimo percorso di questa trasmissione, questo bellissimo successo, che è Enrico Brignano. Ci sei? Eccoci, certo. Che amore mio, però un giorno vieni anche con il tuo corpo, perché insomma capisco che sei in tournée. Vorrei, adesso il mio corpo è a Milano, quindi il mio cuore è un po' a Roma. Però insomma, tendenzialmente i miei 86 kg stanno qua. Ecco, allora, visto che abbiamo parlato di Frozen e del tuo bellissimo personaggio, questo Mino di Neve, ci ascoltiamo alcune note di Sognando l'estate, cantata da Enrico Brignano. Davvero? Mi sa che non hai molta familiarità col caldo. No! Ma a volte amo chiudere gli occhi e immaginare come sarebbe se venisse l'estate. Basta che l'ape svolazzi accanto a me ed io ricordo in un attimo quel che amo. Un drink? Lo vorrei! Eccoti Enrico, ti sei divertito? Sono state brave? Sì, io ricordo di quando Brancucci, il maestro, sentì questo "La vorrei!" che impazzì sia lui che la figlia, Virginia, e impazzirono, e quindi io ho detto "Ma netto, troppo". "No, ma che scherzi, questo piace, vedrai che piace". In effetti avevano ragione loro. Perché poi io ricordo anche la genesi di questa canzone qui, nel senso che non si poteva avere un master per studiarlo a casa in modo tale da non te lo permettere alle prove, non c'era il verso, e quindi lui me la canticchiava al telefono, io ero a Parma al macello, dico "Ma come faccio, maestro, ma è complicato". "Ma no, poi vieni, poi facciamo, vedrai". Insomma, alla fine è riuscito a fare due note lui personalmente col pianoforte, e io in macchina, siccome sapevo che dovevo fare 400 chilometri, dico "Vabbè, mo nel frattempo e la canto". Il povero Massimiliano che guidava, l'ho massacrato, perché attraversando gli Appennini cantavo "Un trick, la vorrei!". Insomma, una rottura di scatole. Quindi arrivato a Roma, poi lo provammo, ma la cosa che ci preoccupò di quella canzone era la nota finale, l'acuto, che non era, come si dice, non era nelle mie corde. Quindi trovammo un patto, anzi, insomma... il maestro disse "Guarda, facciamo una cosa, togliamoci subito il dente, facciamo l'acuto e poi dopo, in modo tale che se c'è qualche imperfezione o qualche cosa, magari sgarri la voce, intanto lo portiamo a casa". Però questo alle 10 di mattina, io alle 10 di mattina... Non sei manco chi sei. Ma non mi ricordo manco il codice, niente, io sono partita IVA, chi sei ricorda? E quindi ho dovuto fare queste cose, mi sono dovuto alzare presto, alle 8... A mente fresca, come dicono tutti, ci vediamo domani a mente fresca alle 8. Ma quale mente fresca c'hai alle 8? Scusami, alle 8 a fare un po' di urla per strada. "Oh, ma va a morire ammazzata, ma chi te con", insomma, vabbè. Brignano embriaca alle 8. E quindi, però, è stato, devo dire, è stata un'esperienza straordinaria, perché per quello che ne è venuto dopo, io non sapevo. Beh, nemmeno del grande eco che poi ci sarebbe stato. Invece adesso sono pronti addirittura per il secondo, quindi sì, lì canto io, ti doppio io mentre canti. Abbiamo sì, è fantastico. È un'altra cosa. Sì, lo vorrei. Tu non ci arrivi, e allora lo faccio io, certo. Sotto, capito? Ma te c'hai anni di sigarette dentro. di alcol, di tutto. Non è vero. Vai Brignano, vai a Teatro di Corsa. Dove ti trovi adesso? Dove sei? Adesso mi trovo al Teatro Nazionale, a Milano. A Milano con Evolution 2.0. Poi verrai a Roma. Quindi, no, insomma, sei stato già a Roma. Sono stato già a Roma all'auditorium per 2 mesi e qualcosa. Quindi, come al solito, con 4-5 persone a sera, come al solito, quei 4-5 che ti porti dietro. Alcuni fedelissimi. Sì, sì, sono quelli affezionati. Ecco, sì, due dottori, un infermiere e due comparse. Maestro, comunque ti volevo ringraziare per l'aiuto. Sei stato bravissimo, sei stato. No, sei tu che... Poi aspetta, insomma, io credo che voi l'abbiate già detto, ma sono differenti luoghi dove si doveva registrare, da una parte, cioè da... si doveva fare la versione musicale, la canzone, invece da un'altra con la Izzo, Fiamma Izzo, sì. Invece dovevamo fare la recitazione. La recitazione, quindi, certo. Quindi non era tenuta stagna, insomma, due cose completamente... Virginia è stata bravissima a tranquillizzarti e a fartelo fare con calma. Infatti, anche lei ha fatto la scrittura della canzone, no? La traduzione. No, lei, Lorena. Lorena ha scritto i testi e Virginia ti ha diretto. Ha fatto l'adattamento? Sì. Esatto, sì, sì. L'adattamento della canzone. Bene, ragazzi, grazie di questa telefonata e questo ricordo. Grazie a grazie te, Enrico. Enrico. A presto. Un abbraccio forte, ciao. Forte. Un bacio a tutti. Ciao, ciao, grazie, Enrico. Ciao, ciao. Beh, bella, bellissima testimonianza, anche questo, sì. Vedi, non serve parlare tanto quando poi sono dei professionisti che ringraziano, ma soprattutto poi la gente, perché il successo è veramente strabordante. Sì. No, ma la cosa bella di questo lavoro è anche la disponibilità. Cioè loro arrivano lì, questo deve un essere po' timidi, secondo ma me la cosa disponibili, più... ma deve essere così, questa è la normalità. Sì. Cioè la disponibilità, bravo, l'entusiasmo nel lavoro, nella professione, dovrebbe essere la normalità. Quando ti dicono, ti presento una persona, guarda che è simpatica, no, tu mi devi avvertire quando è antipatico, perché deve essere normale che è simpatico. Persona. Sono dei grandi professionisti tutti quelli che avete utilizzati, a parte me, ma strada facendo lo scopriremo anche questo, però io non ho avuto il piacere. Avercene no, di Pino Insegno. Sì, d'entusiasmo di Pino Insegno. E allora dopo Frozen, che poi avremo anche forse, ci sarà Serena Rossi al telefono più tardi? Ce l'avremo anche Serena, perché sì, lei ha anche avuto dolcissimo. Un momento, ci avremo Sergio Camariere, Serena Utiera, Serena Rossi, tutti sereni. Sono tutti sereni, vedi, questo film sereni. Infatti è nato sotto buoni auspici di serenità. Abbiamo cominciato dalla fine, da Frozen, ma tu mi hai aperto il mondo quando mi hai detto dei tre dei sette nani. Io potrei fare una puntata su tre. Arrivano tanti messaggi di ringraziamento perché in effetti avete accompagnato, cioè le parole diventano poi quotidianità per le persone, per i bambini. Verissimo. Cioè tu poi immaginate, poi basta poco di zucchero, cioè comunque tutto resta lì, non c'è stato bisogno di dire il doppiaggio, il non doppiaggio, voglio dire in originale. Certo. A cantare supercalifragilistiche spiralidoso, che non era così, no. O altre cose, ma cioè, in tutto il mondo c'è una gara nel doppiaggio e la traduzione dei film di Disney, c'è sempre poi una gara, fra virgolette, fra grandi professionisti, qual è quella che riesce meglio, e voi vincete sempre. Cioè... Ne sa qualcosa Lorena? È vero Lorena, perché ne sai qualcosa? Perché ovviamente scrivi la responsabilità di scrivere i testi in italiano è enorme. Perché... La prima testa che salta dalla famiglia Brancucci, esatto, sei te. Esatto. Esattamente, la prima messa al muro alla Berlino. La bidata. Senti, perché? Allora dobbiamo salutarci un attimo, certo. Soltanto un attimo, torniamo fra pochissimo con altri ospiti e altri film da Disney, ma voi dovete tornare, vi siete resi conto che non c'è tempo per raccontare tutto. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. E come dice l'amico Cristian Iansante, Voice Anatomy è tornata, 15:33 primi e 27 secondi, Brancucci Family al mio fianco, ci fanno sognare da mille anni, dai tempi dei sette nani, da quando ho scoperto questa cosa con papà e alla fine. Abbiamo sentito prima Brignano sottolineare l'importanza, abbiamo già al telefono un altro protagonista di uno dei tanti film, questo mi riguarda pure un po' da vicino, che era la principessa e il Ranocchio, e al telefono c'è un grande artista, un grande cantante, meraviglioso, che vorrei tanto avere, perché lui veramente parla di voce. Sergio Cameriere, buon pomeriggio, grazie per questa presentazione. Non è stata difficile. Ciao, Sergio, credimi. Ciao Ernesto. Ciao. Saluto intanto Ernesto Brancucci, il capo stipite. Lui, insomma, ho partecipato a questa colonna sonora del film La principessa che tra l'altro insomma era musica degli anni 20, era difficile, scritta da Randy Newman, uno dei più grandi compositori americani, una famiglia anche quella come la Brancucci, di cantare il brano di apertura del film, che in originale era cantato dal dottor John. Insomma, noi ce l'ascoltiamo un attimo, Sergio, resta con noi ovviamente e prego il nostro tecnico audio di mandare questa bellissima La vita a New Orleans. Sembra un posto come tanti, invece speciale. Alle donne più eleganti, è una città che vale. Che swing, amico Sergio! Bravo, Sergio. Senti, qua, ti hanno aiutato o tu hai aiutato loro? Che è successo lì in sala? Devo dire che la famiglia Brancucci è da tanti anni, è da generazioni che si occupa. Pensa che è sempre lui, fa parte della sua generazione. Le stesure, sì. Le strutture originali, mettendo in risalto sia la dote dei cantanti, degli interpreti, ma anche con tutte le soluzioni tecniche del caso. Ecco, nel caso di questo brano la lingua italiana andava divisa in un certo modo e grazie ai loro suggerimenti siamo arrivati alla conclusione. Lorena, sei chiamata direttamente in causa, non era sì. Facile qui, no, particolarmente non era facile, perché proprio il senso del ritmo, insomma, che ha questa canzone, che la rendeva difficile, perché poi, come sappiamo, in inglese uno dei problemi principali che io mi trovo ad affrontare è quello della diversa lunghezza che hanno i termini italiani rispetto a quelli inglesi. Loro con tre parole cortissime riescono a esprimere un concetto, noi ne abbiamo bisogno in media di altre 15 per dire la stessa cosa. Come i giapponesi fanno, hanno detto come stai, io sto bene, tu domani che cosa fai? Quando poi una canzone è così ritmata e ha un sound così particolare, se le parole non sono non rispettano esattamente a perfezione la metrica, la ritmica, originale, certo. È impossibile cantarla. E poi vabbè, noi avevamo Sergio che è stato bravissimo. Ti piace vincere facile, dici? Piace vincere facile, ce lo siamo scelto facile. Lui ha questo senso di ritmo meraviglioso, quindi è stato ovviamente bravissimo. Io ho cercato in tutti i modi di agevolarlo scrivendo un testo che fosse il più facile possibile da cantare secondo quel ritmo. E poi ovviamente però dovevamo rispettare il testo originale, il significato. Com'è stata, Sergio? Buona la prima? Oppure hai dovuto faticare un po' di più qui? Quindi secondo me un po' di fatica c'è stata, perché non era facile. A questa domanda preferirei far rispondere al maestro Brancucci. Che tu dici ha aumentato i capelli bianchi dopo l'interpretazione? No, non è assolutamente così. Sergio è talmente bravo che non... L'avrà fatto un paio, due, tre volte al massimo. Grande intuizione quella perché... di aprire con Sergio questo film, ma questo soprattutto swing. Perché lui è molto meticoloso, è di una precisione, ci tiene in tutte le pinze, cioè, non è uno che lascia sfuggire qualche cosa. È un musicista, è musicista, ma a parte è un pianista. Pianista eccezionale. Abbiamo anche avuto l'onore di sentirlo, perché eravamo proprio è proprio lui che se qualche cosa era leggermente fuori posto, poi era il primo a dirlo. Quindi eravamo veramente nella bambagia a lavorare con lui. È stato un effetto domino positivo tutto, sì. Ognuno aggiungeva qualcosa. Me l'hai diretto, signorina Virginia? Non ho avuto il piacere purtroppo con Sergio, no. Sergio c'è stato bisogno, si dirigeva da solo, e come aiutare già chi sa fare il salto mortale, solo fa male. Sono stato diretto dal buon Ernesto Brancucci, che con in mano la partitura seguiva le note, tutti i puntini, le varie divisioni. Non so se sai che io sono un autodidatta puro e non leggo la musica. Ma guarda, io neanche l'ascolto. No, sto scherzando, ovviamente. Anch'io non la leggo. Cioè, la leggo con molta difficoltà, ecco. E invece, in questo caso c'era da seguire le giuste note, il giusto tempo, la sequenza giusta, e quindi sono stato... Ma stiamo ripetendo sempre le stesse cose. Sì. Ci siamo divertiti. Sergio, dove sei adesso in questo momento? No, adesso sono a casa e sto guardando la partita della Roma che ha vinto. cioè ha vinto, siamo sul primo tempo e no, ha segnato gol record. Ti ringrazio di questa precisazione, visto che io felicissimo, io, no, ma io no, il mio successo non è l'insuccesso degli altri. Cerco di fare da un po' di tempo, ho fatto molte domeniche in televisione proprio per evitare il calcio, perché insomma si chiama, per quanto mi riguardo, è mai una gioia, si chiama il calcio, per cui cerco di evitare. Dall'altra parte c'è il nostro tecnico audio che stranamente quando gioca la Roma lui non è presente, invece oggi è presente, felice per ricordartelo, per ricordarmelo, ma non è nessun problema. Il nostro pubblico a invece di vedere le partite di calcio, andare al cinema oppure in televisione a guardare un film. Sì, anche, certo, ma assolutamente leggere un bolino. Ma se la Disney non devi neanche raccontarlo, sottolinearlo, perché tutti noi siamo stati accompagnati dai nostri genitori al cinema a vedere Disney, con la scusa di accompagnare noi, se erano i nostri genitori che versavano la lacrimuccia in più. Adesso siamo noi genitori che accompagniamo i nostri figli con la scusa di fargli vedere un film Disney, siamo noi che ci emozioniamo. Pensate all'ultimo Inside Out, non c'è da cantare, ma un film straordinario, insomma. Assolutamente. È vero, sì, nel caso della principessa il Ranocchio volevo... Dimmi Sergio. Cioè, così ricordo un momento emozionante per noi grandi, il personaggio doppiato da Laurenti. No? Ah, Luca Laurenti, è stato anche lui molto bravo a cantare. Devo dire che ha avuto una commissione di grandi artisti quel film, devo dire. Assolutamente. Da parte c'è anche Luca Ward, Luca molto Ward, bravo. Poi c'è anche uno che ha fatto un pezzo. Ce n'era uno bravissimo, secondo me il migliore di tutti. Anche Tale, secondo me. Joe I Teach. Sentiamoci un pezzo di Joe I Teach del... Il mio mondo, il mitico lui. Sì, il mio sogno si realizzerà, un attimo per capire, mi fanno dei cenni assoluti dalla regia che non trovano il brano, l'hanno trovato. Sentiamo un attimo la voce di quest'uomo. Ascolta, Sergio. Se fossi un uomo anch'io, suonerei a modo mio. Se la musica vi stuzzica, potremmo formare un trio. E anche Louis Armstrong era meglio di me. Per arrivare il nuovo re. Attenzione, tremate case discografiche, sta arrivando il nuovo re. Ho preso un paio di note a fortuna e ogni tanto Brancucci dice: no, Pino, è il nuovo re. E io faccio: non me fa così, che non so che stai a dirne, fammela cantare, perché non lo so che nota sto prendendo. No, tu mi stai sul diesis, ma io te sto sul cavolo, non lascia sta, non mi segui. Sergio, invece, quando ascolteremo invece un tuo CD nuovo? Su un nuovo progetto. Mi piacerebbe fare un nuovo disco con l'orchestra. Insomma, ci stiamo evocativo, vero, affinché si possa realizzare un nuovo album, magari dei miei grandi, cioè dei successi riveduti con l'orchestra, rifatte con l'orchestra. Sì, chiamaci anche... per i cori, mi raccomando. Sì, i cori, c'è la famiglia Brancucci che può organizzarteli, e se ti serve veramente un coro importante sono disponibile a zero lire anch'io come turnista. Ah, bene. Assolutamente. Lo tengo in considerazione. E poi i tuoi brani veramente possono essere ascoltati senza lo strumento, con uno strumento, sì, unplugged completamente o con l'orchestra. Sono veramente, la tua voce è veramente, ti accompagna fantastico in questo mondo straordinario. Questo è Sergio Cameriere, artista, che ovviamente non sta a me sottolinearlo, l'importanza e l'eleganza che ti contraddistingue. Sergio, grazie davvero di questa testimonianza. Grazie, voi, grazie davvero. Forte. Buona domenica continua, non voglio sottrarti all'attenzione. Siamo al 42esimo. Abbiamo già vinto, Roma, vero? 01. Va bene, ti ringrazio, ciao, della precisazione. Ciao, Sergio, grazie mille. Ciao, e non siamo ancora tutti convocati quando mi racconteranno i risultati, perché dopo la nostra trasmissione c'è un'altra bellissima trasmissione sul calcio di questa nuova domenica di Radio 24, voluta fortemente dal direttore Sebastiano Barisoni e tutto ovviamente il gruppo del Sole 24 Ore. Una radio veramente molto attenta, molti messaggi di complimenti, di gratificazione, che ovviamente non vado a leggere e a sottolineare, perché è quasi di default una cosa del genere. Cioè, fate un grande lavoro ed è testimoniato dalla gioia che costruite, che date costantemente, e dalla testimonianza di questi grandi professionisti, ma ce ne sono tanti, per cui vi dico, dovete tornare per forza. pazza, cioè abbiamo fatti tre dei film, ne sei avete molto, fatti... molto carino, ma non sono molto carino, che proprio abbiamo fatti tre di film, ne avete fatti e guardate, non li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vabbè dai su, ti prego, cioè dobbiamo fare Voice Anatomy special, lo dico ad Alessia Navarro, prendi immediatamente i contatti per fare tre puntate speciali su trasferiamo direttamente qui, portiamo, sì, con delle piaghe da decubito sulle nostre materasso e io tenda. Porto i supplì e via così. Dopo abbiamo un altro ospite al telefono che è la grandissima Serena Autieri, anche lei grande protagonista Brava. Musicale del teatro, Brava. Della televisione e anche del cinema Disney, con anche lei Frozen, se non sbaglio, sì, no, la protagonista, insieme. Lei è la grandissima Elsa, sì, è insomma, la nostra Elsa. Ma tuttora tutti i pupazzetti che cantano con la voce sua, i borsette che si aprono diventano sì, di ghiaccio con la voce sua, sì, io non so sì. che cosa. Ma le bambine si aprono, impazziscono, le bambine impazziscono per Elsa, è un personaggio. Ma anche quando va al bar, se vogliono col ghiaccio, dice me lo chiede, esatto. ci pensi da sola Serena, tutto questo. Ma glielo diremo a lei direttamente. Tra pochissimo, sempre con Braccucci Family and Disney Story e l'amica Serena Autieri, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy, come la famiglia Brancucci, che è la famiglia che ci permette di sognare in italiano nei film straordinari della Disney da sempre. Prima ho detto Sebastiano Barisoni, direttore, vice direttore, Roberto Napoletano, direttore, scusate queste escursioni, comunque non è importante, la cosa interna, l'importante è che questa radio dia la possibilità a varie voci di confrontarsi e di raccontarsi. E dall'altra parte del vetro l'amico Alessandro si è proposto insieme al capo progetto Valerio, oddio mio, no scusami Valerio, cioè, per me c'è Alessandro nella mia vita e basta, e... problemi miei dice, e anche Alessia Navarro, capo progetto, io ho qui al telefonino, so che non è molto professionale, ma un momento per farla sentire proprio alla famiglia Brancucci, se possibile far cantare il prossimo film della Disney ad Alessia, questo è un momento di una canzone romana dove lei è maestra. Senti. Ho sognata vestita d'argento, e un angelo sceso dal cielo, e domani vestita di velo. Silenzio. No, no. Le campane che suona per la gioia di chi te va bene. Beh. Attenzione refrain. Vabbè. La serenata della canza. Ecco, questo era un provino, una specie di voice box nostro. È una grande attrice, una brava autrice. Credo che gli manchi soltanto questo tassello nella sua vita, distruggere un film della Disney. Ma succederà, non succederà, non lo so. Però il dottor Brancucci, a parte essere stato tre dei sette nani, che la cosa io gliela ricorderò finché camperà, e Aladdin col grande Gigi Proietti, cioè, tu avete fatto anche quello ed è meraviglioso, e tu hai cantato perché sei un cantante, però ci sei ed è Notti d'Oriente, l'apertura del film, o sbaglio? Sì, proprio sì. Mi fate sentire la voce, la viva voce di del dottor Brancucci. La mia terra di fiabe e magie. Senti. Credi a me, ai cammelli che vanno su e giù. Era lui. C'è un deserto immenso, un calore intenso. Non è facile, ma io ci vivo laggiù. Brilla il sole da sud, soffia il vento da nord. C'è un'intensa complicità. Sul tappeto ora va, dove andare lui sa. Nelle notti d'Oriente andrà. Vai, apri! Le notti d'Oriente. Tie. Le spezie e i bazar. Beh, più evocativa di questa. Sì. Brancucci, senti che canna. Qualche ventennio fa. No, beh, era del 1992, 24 anni fa. Posso assicurare che questa canna ce l'ha tuttora. Il tuttora, ma vestirla da piccole, come vi stringi? Così, cantando. Ma vi raccontava delle storie di notte, la sera per addormentarvi, vi cantava delle cose, è stato un buon papà. È stato un fantastico papà. Non solo raccontava tantissime favole, ma poi io... Ve le cantava pure? Le cantava, le favole no, però ricordo che abbiamo noi sempre di papà al pianoforte. Lui suonava e cantava, poi cantavamo anche noi, e quindi questi momenti... Sono i vicini che sono stati tanto felici di questa situazione. Quello piano di sotto, proprio. Secondo me invece venivano in tournée appoggiati i propri figli per farli addormentare. Dice, guarda, andavano in tournée, li poggiavano in camera vostra. Dottor Brancucci, me li riporti addormentati. Ieri sera ho letto 15 favole alla mia nipotina Elisa. Lei ha saputo? Non è più tornata a casa oggi? La stanno cercando. Infatti, non ci vuole anche addormentata. Quando vado ai nonni. Certo, vuol dire che... ha fatto finta di addormentare. Mi permetto di scherzare con Ernesto, che siamo veramente amici della sua professionalità. Anche altri due, Andrea e Davide. Che bello. Adesso ce n'avrai un altro, perché te porto il mio che ce n'ha nel 2 mesi e non dorme. Sarà che la madre. Montagna. Va bene, abbiamo al telefono all'Autieri Serena Rossi, due Serene, per cui l'amica Serena Rossi al telefono. Ciao, pronti? Ciao. Ciao. Ciao, eccola là. Canto le notti d'Oriente mentre voi fate sentire queste cose meravigliose. Maestro, maestro. Ciao, bellissima. La Rossi è veramente una bella persona. Veramente, eh? Veramente. A parte la grande cantante, ho avuto il piacere di condividere con lei. A parte, è stata ospite qui un'altra puntata, ed è veramente stata compagna d'avventura tale quale show. Gli ho insegnato tutto quello che sapevo. L'ho fatta vincere. Gli ho dato 2 o 3 dritte, 2 o 3 note. Lei ha capito, perché lei insomma non ci arrivava, non capiva. Lo so, però ci ha regalato delle grandi emozioni. Quello sì. Auto Fabrizi non me lo scorderò mai, mai. Manco la famiglia Fabrizi, sono immacitato. Ci sentiamo un pezzetto della signora Rossi, che sta insieme a Lautieri oggi per la prima volta. L'abbiamo? La luce che irrompe fin quassù, credevo che non accadesse più. Non ho mai visto tanti piatti qua. Ormai da tempo immemore qui non si vede un ospite. Oggi quel cancello si aprirà. Ehi! Quanta gente incontreremo. Eccoti, Serena. Tu c'hai proprio la voce Disney, c'è proprio niente, sì, c'è la voce Disney. Lei è una principessa nata, poi ha un talento completamente naturale e soprattutto mantiene un'umiltà, una spontaneità, una freschezza che neanche bisogna raccontarlo. Amo follemente Serena, quindi no, lei lo sa. È nato un rapporto poi di affetto sincero, sì, proprio nei confronti di tutta la famiglia in realtà. A parte che sono troppo belli tutti, cantano tutti. Sì, cantano, ballano, non si suonano. A casa con la mamma che fa i magie, la nonna che fa... ma non sai, pensa, si era rotta la macchina dei Brancucci, la nonna è arrivata, ha fatta diventare una carrozza, poi ha detto Brancù torna prima dell'1:15 perché se cena, capito? Perché sennò si trasformava in una macchinazza brutta. Esatto. Ma è così, no, proprio di famiglia. Il nonno è Mago Merlino, è stato, cioè, proprio, sono cresciute. Buone, così, ma... c'è chi cresce nelle droghe, c'è chi cresce invece con una dipendenza. Mi hanno preso per mano e accompagnato in questo viaggio che per me è stata una delle cose che non dimenticherò mai in tutto il percorso fatto fino ad ora, e sono sicura anche negli anni che poi verranno, perché entrare nella famiglia Disney è una roba magica. Farlo con loro è stato veramente facile, perché rimarrà per sempre poi quella voce, rimarrà per sempre. Per poi sempre. Ho avuto modo di fare anche altre cose dopo, con Virginia che mi ha diretta, insomma, maestro non ti pigliare collera. No, si sente il napoletano, la napoletana che è in lei, non sono ti pigliare collera. Delle mie figlie. Non ti pigliare collera, Brancucci. No. dopo i miei 20 anni di gavetta era ora. Dove sei, Rossi? Dove sei? Che stai combinando? Sono a casa tu? A fare una torta al cioccolato. Buona. Ancora in pigiama, perché è domenica, città. Brava. Ho capito, ma insomma, santa miseria, tu stai a Napoli però adesso. No, sta a Roma. È la porta. E allora dai, Piazza Indipendenza 23. Vi porto la torta, va bene. Sicuramente si smonterà quella torta tutta. Però devi venire un giorno bruttissimo. Ho sbagliato. Non devi venire qui di corpo, nel senso di persona. Non volevo che dopo la torta al cioccolato. Vai. Oddio, così non fare gli schizzi, ho detto una cosa brutta. No, di persona volevo dire, chiedo scusa. Fisicamente. Non mi interessava fisica. Il tuo... Ti scrivo un testo, le tue... Sì, chiedo scusa. Basta. Serena, basta così. Amore, tesoro, amore. Un bacio a te e alla tua torta al cioccolato. Ciao, ciao, Serena, ciao, ciao Serena. A presto. Oh mio Dio. Va bene, anche questo blocco è finito, ma è finito con loro, no? Tutto! Di già 45 minuti sono volati è così. Volato. Caspita. No, vabbè, adesso mi giurate quando tornate. Allora, non a Pasqua, non la prossima. Ad aprile, prendete una domenica. Va benissimo. Dai, ci organizziamo assolutamente. Per i soldi sono sempre quelli, lo sapete perfettamente. Va benissimo. Niente, certo. Devo chiudere, altrimenti mi uccidono. Ernesto, grazie, Virginia, Lorena, famiglia Brancucci, straordinaria. Grazie, ci state facendo, grazie. Ci avete fatto, ci fate e ci farete ancora sognare con queste bellissime musiche della Disney, tutta. Con questa grandissima responsabilità che avete. Già. Grazie. Grazie. Tornate perché dobbiamo parlare di altri 18 film. Ciao a tutte e tre i nani. Ciao. Tra pochissimo con la grande storia del doppiaggio e le grandi voci storiche con Gerardo Dicola, Voice Anatomy. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Voice Anatomy. Domenica ricca qui a Voice Anatomy. Si passa adesso a un momento molto emozionante. Vicino a me ho Gerardo Dicola, che è nato il 4 marzo a Pescara del 1948. È uno storico del doppiaggio italiano, conosciuto soprattutto per il volume Le voci del tempo perduto, incentrato sulla storia del doppiaggio e degli interpreti che ne hanno fatto la storia dal 27 al 73. Docente di matematica e fisica, assiduo frequentatore delle sale cinematografiche della sua città, come racconta egli stesso nel libro. Si appassiona al doppiaggio all'età di 11 anni, quando frequenta, tra gli altri, il cinema Il Pidocchietto. Mentre sta per prendere la laurea in astronomia, visita gli archivi e gli schedari del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e si accorge che in Italia, il paese dove si doppia di più, non esiste alcuna esauriente ricerca sul doppiaggio. Decide così di colmare egli stesso questa lacuna e inizia un percorso di ricerca che lo porterà, dopo 8 anni di lavoro, alla realizzazione del volume Le voci del tempo perduto. Allora, eccoci qua. Uno dei più grandi estimatori e conosciuti del mondo del doppiaggio, che è Gerardo Dicola. Gerardo, sono mesi che parliamo di doppiaggio, ma una domanda mi arrovella proprio da anni. Perché non si parlava di doppiaggio, Gerardo? Beh, innanzitutto grazie di avermi invitato. Buon pomeriggio a tutti. Adesso abbiamo l'opportunità di chiarire quello che ti arrovella da qualche anno. Sì. Nel 1940 Michelangelo Antonioni indice un sondaggio pro e o contro il doppiaggio dopo aver scritto l'articolo Vita impossibile del signor Clark Costa. Nella conclusione dell'inchiesta sondaggio, Antonioni deve ammettere la sconfitta dei contrari al doppiaggio, che chiama esteti, e si rammarica dei favorevoli, che chiama spettatori puri. Allora mi sono chiesto chi ha ispirato Antonioni. E in questo ti chiederei di venirmi incontro, di perché è stato il regista Jean Renoir, che un anno prima aveva scritto una feroce critica del doppiaggio. E allora ti leggo mi hai dato questi appunti importantissimi. Allora, queste sono le parole di Jean Renoir. Considero il doppiaggio una mostruosità, una sfida alle leggi umane e divine. Come si può ammettere che a un uomo con una sola anima e un solo corpo si aggiunga la voce di un altro uomo, ugualmente possessore di un'anima e di un corpo del tutto differenti? È una sfida sacrilega alla personalità umana. Sono pervaso che nelle grandi epoche di fede religiosa si sarebbero bruciate vive le persone che hanno inventato una simile idiozia. Questo detto, che ne pensi? Capite? Mamma mia, che invettiva! Tutto il nostro cinema italiano, perché anche il cinema italiano è stato un cinema doppiato, totalmente doppiato, si basa su una idiozia, un cinema idiota. Mi sembra abbastanza esagerato. Sì. Comunque, torniamo a Antonioni, Antonioni, che si è accodato con quell'articolo, Il Vita Impossibile del signor Clark Costa, che dice... Io vado a leggerlo subito, che poi è interessantissimo questo Clark Costa, e capirete chi è adesso da quello che dice proprio Antonioni in risposta a tutto questo. Qualcuno tra i lettori conosce il signor Clark Costa? Probabilmente no, e nessuno lo ha mai sentito nominare. Eppure, frequentando come fanno i cinematografi, lo avranno visto chissà quante volte sullo schermo. È un tipo alto, atticciato, il volto maschio, somiglia stranamente al Clark Gable. È una voce pastosa, un po' rude e profonda, che stranamente ricorda quella di Romolo Costa. Ma non è Clark Gable, né Romolo Costa. È un individuo ibrido, nato da una combinazione chimica, che deve avere molta simpatia per il nostro paese dal momento che solo qui lo incontriamo. Mezzo Clark, mezzo Costa. Non sarà il mito di Aristofane avverato? Comunque sia, verso di lui non proviamo alcun trasporto, ma a questo punto i lettori avranno già mangiato la foglia. Mettiamo dunque le carte in tavola e diciamo chiaro e tondo il nostro pensiero. Ecco, mi sembra un articolo molto duro, sì, nei confronti del doppiaggio e dei doppiatori, che in qualche modo hanno salvato il cinema italiano nel periodo del dopoguerra, ma soprattutto nel periodo prima della guerra, ma soprattutto del dopoguerra, quando praticamente tutti i film venivano doppiati, in quanto i film stranieri non potevano essere proposti ad un pubblico che non conosceva l'inglese e che leggeva a fatica le didascalie. Certo. Per cui poi c'è stato il fenomeno che anche i film italiani erano doppiati. Allora vediamo un po' che cosa è accaduto nel momento in cui Antonioni ha smesso i panni del critico cinematografico ed è diventato il regista. Nel suo primo film, Cronaca di un amore, lui non fa altro che utilizzare le stesse voci che aveva criticato in quel feroce articolo. Per Fernando Sarmi ha usato la voce di Emilio Cigoli, che era quella di John Wayne e che aveva sostituito Romolo Costa. E poi per Lucia Bosè, che era stata fino ad allora una commessa in un negozio milanese, ha usato la voce di Rosetta Calavetta. Voi prima avete avuto ospite Brancucci, che ha registrato Biancaneve nel ridoppiaggio. Certo. Ma nel primo doppiaggio del 37 Biancaneve era doppiata da Rosetta Calavetta, che è la voce di Lucia Bosè. Esatto. E quindi una contraddizione incredibile. In termini, adesso guarda, rimani con noi ovviamente, perché è cominciato appena questo percorso filologico sul doppiaggio. Restate con noi, con Gerardo Ricola, perché è veramente molto affascinante. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, Voice Anatomy, con il grande storico del doppiaggio italiano e non solo. Sono le 16:16 primi e 6 secondi. Avevamo cominciato raccontando per quale motivo venisse bistrattato da Jean Renoir all'inizio, da Michelangelo Antonioni, e poi Michelangelo Antonioni, come ci sta raccontando Gerardo, che cosa fa nel suo film d'esordio, quello importante. Non fa altro che prendere i grandi doppiatori e sostituirli a degli attori che non erano in grado magari di esporre chiaramente, in maniera recitativa ovviamente, la propria voce. Credibile, la parola giusta è credibile, per cui Lucia Bosè era doppiata da Rosetta Calavetta, che era stata la voce di Biancaneve nella prima e sarebbe edizione. Diventata la voce di Marilyn Monroe. Ah, è lei, quindi, certo, una voce falsa, ma veramente straordinaria. Poi ne parliamo di questa, la voce di Marilyn Monroe, l'ha resa anche lei un'attrice migliore, un po' l'Oreste Lionello su Woody Allen, insomma, la voce di Claretta su Marilyn Monroe. E poi l'attore protagonista, anche lì si scelse Emilio Cigoli, il grande trombone meraviglioso che c'è, John Wayne senza quella voce non sarebbe stato il nostro, certo, John Wayne, certo. E allora noi abbiamo questa possibilità di ascoltarci questo contributo tratto dal film di Michelangelo Antonioni, Cronaca di un amore. Anche tu sei cambiato, ti sei messo a fare complimenti. Da quando ci conosciamo è la prima volta. Gli anni passano e ci si lascia andare. Ho visto subito che eri diversa. Forse gli occhi sono più scuri. E poi tutto. Sei più maturo. Per forza, con quello che si è passato. Ma lasciamo andare. Parliamo di noi. Anzi, di te. Tu cosa hai fatto di bello? Ti sei sposata? Ti sei sposata? Che bell'aria. Ma, che... vorrei anche puntualizzare che nello stesso film Franco Fabrizi, un giovane Fabrizi, grande, era doppiato da Alberto Sordi. Da Alberto Sordi. Quindi parliamo veramente di un cinema italiano totalmente doppiato. Ma adesso vorrei fare io a te, Pino, sì, una domanda. Oddio, speriamo di essere in grado di risponderti, sì. Gerardo. Hai visto il film Roma, città aperta? Beh sì, assolutamente. L'hai sì, visto? Di Rossellini. Certo, ma tu ritieni che sia stato doppiato? No, secondo me no. Sbagli, pur essendo un addetto ai lavori, è un film totalmente doppiato. Totalmente doppiato. Certo, non erano doppiati, ma si autodoppiavano, perché la presa diretta era impossibile in quel tipo di film, ma sarebbe stato impossibile sempre, almeno fino agli anni Ottanta. E quindi non erano doppiati Aldo Fabrizi e Anna Magnani, certo, erano ma loro. Il resto c'era la voce di Lauro Gazzolo, il vecchietto del West. Del West, sì. C'era Gualtiero De Angelis, grande Cary Grant, la voce di Cary Grant, di James Stewart, certo. Quindi il vessillo del neorealismo, quindi del cinema italiano, è stato un cinema doppiato, un film doppiato. Però vi vorrei anche far capire che questo velo, questa omertà sul mondo del doppiaggio è stato praticato praticamente da tutti. Vorrei riferirmi in questo momento al critico cinematografico e futuro regista Carlo Lizzani. Mm-hmm. Carlo Lizzani ha scritto nel 1953 la prima storia del cinema italiano. Quindi una prima storia per cui è stato importante in quanto ha ricostruito quelle caratteristiche peculiari del nostro cinema, dai telefoni bianchi al neonato neorealismo. Però il libro è del 53, ma lo stesso Lizzani nel 50 ha realizzato il suo primo film, Actum Banditi, sì. e c'era Gina Lollobrigida. Che era doppiata. Da chi, Pino? Ah no, farmi no, questo. Dimmi, da chi? Io pensavo che fosse se stessa in qualche modo. Assolutamente no, era sempre Rosetta Calavetta. Cioè ha reso grandi così tantissime attrici. Ma così come in Roma città aperta c'è su Carla Rovere ancora Rosetta Calavetta. Per cui era proprio binomio di successo abbinare quelle voci credibili, come hai detto tu. Per cui il neorealismo si basa su una neofalsità, nel senso... Sono d'accordo, sono profondamente d'accordo. Perché anche Ladri di biciclette, i protagonisti straordinari, veri, eccetera, ecco, non erano loro. Allora, Lamberto Maggiorani, da quello che mi ha detto Manuel De Sica... Sì, figlio di grande Vittorio. Si era autodoppiato con una certa fatica, però in quel film è riconoscibilissimo un Alberto Sordi giovane. Ma lui veramente ha cominciato così, faceva l'avanspettacolo e doppiava fra Stalle, fra Olio e gli attori ma famosi. Guarda, se tu prendi un qualsiasi libro di storia del cinema italiano, tu non troverai la parola doppiaggio se non il riferimento ad Alberto Sordi in quanto doppiatore di Olio. Ah, certo, sì, altrimenti non si sarebbe utilizzato il termine doppiaggio, perché di doppiaggio, diciamolo come stanno, faceva perdere dignità al film stesso. Non si doveva parlare di doppiaggio. Vabbè, questo è come i libri di storia nelle scuole, insomma bisogna stare attenti a chi la racconta la storia. Se fossi in te mi chiederei ma perché non si doveva parlare di... Io me lo domando e te lo domando, ma perché non si doveva doppiare? Allora, parlare di doppiaggio? Ecco, allora qui dobbiamo tornare al film Cantando sotto la pioggia. Ah, sì, quello è stato nel momento in cui il produttore del film, che si stava realizzando, ora non ricordo il titolo. Stallidone nel regista del film. Sì, del film. Sì, cioè ovvio. Gene Kelly. Ma il produttore, ah, del produttore film, nel che film si stava realizzando, sì, sì, sì, dice apertamente: noi dobbiamo doppiare Tina Lamont, che non era, che aveva una voce impossibile. Impossibile. Quella voce per noi era Zoe Incroci. Zoe Incroci, come no. Ebbene, però ha tenuto a specificare che il Tina Lamont non ne sappia nulla, che noi la doppiamo. La voce della doppiatrice nostra era Flaminia Iandolo. Mm-hmm. Mi chiedi per cortesia, sì, chi aveva doppiato Flaminia Iandolo fino in quel momento? Chi aveva doppiato Flaminia Iandolo fino a quel momento? Chi mi piace questa cosa da conduttore, da autoconduttore a intervistato a intervistatore, bellissimo, grazie Gerardo. Grazie a te. Il ragazzino di Germania anno zero, quel ragazzino che poi si è suicidato, era la voce di Flaminia Iandolo, la quale ha doppiato anche il piccolo ferroviere nei vitelloni di Fellini. Esatto. Per cui capisci che cose strane sono accadute nel mondo del cinema, del cinema italiano, non del doppiaggio. E il Vangelo come... secondo Matteo, di Gesù era Enrico Maria Salerno. Salerno, che era stato la voce di Clint Eastwood, per un pugno di dollari, della trilogia del dollaro. Quando Gianmaria Volonté era doppiato da... anche lui, non so da chi, però. Beh, Nando Gazzolo. Da Nando Gazzolo. Certo. Cioè, certo. Gianmaria Volonté, grandissimo attore, voi conoscete perfettamente, proprio insostituibile, irraggiungibile nella trilogia del dollaro, nei due almeno che ha fatto, era Nando Gazzolo. E Enrico Maria Salerno, Clint Eastwood. Clint Eastwood, con certo, una semplicità tale. Al mio mulo non piace essere preso in giro, senza troppo timbro, senza troppo, con una cantilena incredibile. Beh, queste sono soltanto piccole curiosità del mondo del doppiaggio e della recitazione e del cinema. Ed è bello che ci sia un testimone che come te ci sta raccontando queste cose. Beh, perché oggi è una puntata che dovrebbe durare almeno 10 ore, perché con la famiglia Brancucci per raccontare Disney non è stata abbastanza. 45 minuti abbiamo soltanto sfiorato il mondo Disney. Voi avete parlato del ridoppiaggio di sì, poi senti, cominciamo a sentire qualche contributo, anche se fra pochi minuti dobbiamo tornare. No, io sì, continuerei a parlare con Gerardo, abbiamo ancora 3 minuti di questo blocco, perché è troppo interessante. Scusa, che volevo solo sottolineare che tutte queste cose si possono anche trovare, certo, nel nostro sito, l'enciclopedia del doppiaggio. Sì, del bravissimo Andrea Razza. Ecco. Razza o Razza? Vedi, anche qui bisogna chiedere ai bravi. Questo, io direi Razza. Razza, come Razza. Come Razza. La Razza, dov'è? Invece il pesce, che chiamiamo, no? La Razza. Invece certo, Razza certo, è un uomo che è Andrea. E ci certo, saranno anche altri, insomma. E tutto sito è sul tuo, la tua enciclopedia si trova ancora. Io la custodisco gelosamente. No, la tua enciclopedia. Salito, però poi sì, ho fatto il teatro di Shakespeare. Ah, sì, lì è un'altra cosa straordinaria. Esatto, lì è un'altra cosa, un'altra avventura sì, straordinaria. 8 anni e 5 anni. Mamma mia. Bene, e quindi... un pizzico di vita, però ce la stai ridando a tutti, perché lasci una traccia importante, perché per molti in maniera leggera il doppiaggio rovina, distrugge, no, esalta, no questo, no quell'altro, il cinema di una volta, no, il cinema di una volta era questo. Allora, tu per favore invita qualche volta quelli denigratori certo, di adesso del doppiaggio, no, se vogliono confrontarsi. Sì, sì. Ospitali, se poi mi chiami, vediamo un po', confrontiamoci. Che ora bello, non faccio nomi. No. Però se no, tu no, io faccio pure i cognomi, no? C'è stata una volta anche dei critici storici importanti con cui ho avuto una diatriba non così importante, perché all'ultimo poi le motivazioni sono basse. Scusami, tu oltre ai critici, ma loro fanno un mestiere. Sì, sì, va bene, devono giudicare il film originale. I tuoi colleghi attori denigratori che non potrebbero assolutamente oggi come oggi doppiare un film di Shakespeare, invece voi nel giro di 10 minuti entrate in sala di doppiaggio e riuscite a rendere le atmosfere di Shakespeare nei suoi capolavori. Anche... soltanto voi riuscite. Questo ti ringrazio certamente... a nome della categoria di attori, di doppiatori, come i grandi Bud Spencer e Terence Hill, no? Uno sentiva bravissimi, divertenti, hanno segnato un'epoca in tutto il mondo, ma erano le voci di Pino Locchi e Glauco Onorato. Glauco Onorato. Non erano le voci vere di Terence Hill e Bud Spencer. Ti riferisci al Trinità. Pistolero o al prete? No, al pistolero. Il prete è Terence Hill. Il prete si doppia da solo. È impresa diretta. Certo, lo so. Però c'è una bella differenza. Beh, Pino Locchi è irraggiungibile, gli ha dato una profondità l'ironia di Pino Locchi la conosciamo su James Bond, poi ci ascolteremo qualche contributo che racconta proprio di questo, senza nulla togliere, per carità, agli attori. Rimasi deluso anch'io una puntata di Domenica in Antica con Maurizio Melli e Fabio Testi, che facevano un interrogatorio perché era il periodo della polizia, eccetera, e non riconoscevo da bambino, dico, che stanno a fare? Che dicono? Stanno facendo un'istruttoria, ma non sono le loro voci? E non capivo, perché ero abbastanza giovane, non capivo che stava succedendo. Erano doppiati, semplicemente. Certo. E allora, restate con noi. Stiamo perdendo un po' di amici, ma stiamo acquistando un sacco di estimatori. Ah, a tra interessa. Poco, neanche a me. A tra poco, un Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, sono le 16:32 primi e 10 secondi, vicino a me lo storico del doppiaggio e del cinema italiano, Gerardo. Mi arriva un bellissimo messaggio: nome nobile, persona profonda ed elegante, un vero signore, la sua storia è adorabile, grazie per impegnarci la vera, raccontarci la vera storia. Francesca, Pino 53 anni, a 21 anni cenava ai Parioli con alle spalle un tavolo di doppiatori, favoloso, sembrava di stare dentro un film, dice Luca. Ringrazio i doppiatori italiani, siete bravi, avete le voci più belle degli originali, bravi. C'è tanti altri di commenti positivi, ma io leggo assolutamente anche quelli che non sono d'accordo. Dice la nostra amica Carmen: Jean Renoir aveva ragione, ma in Italia, solo in Italia, la lobby dei doppiatori è troppo forte, la sua trasmissione lo conferma. All'estero non è così e fortunatamente si possono vedere i film in lingua originale, non solo in English. Costretta a vedere film doppiati, i suoi amici con me, quando li vedo in originale, I can see the difference. Allora, cara Carmen, ne abbiamo parlato lungamente. Allora, non c'è una lobby dei doppiatori, non siamo noi sicuramente a voler che doppiare i film. L'abbiamo detto anche con Alessandro: se segui la mia trasmissione, la nostra trasmissione, ti rendi conto che offre varie sfaccettature. Parliamo di voce in tutti i suoi meandri, in tutte le sue declinazioni. Si sono alternati a questi microfoni filosofi della voce, etnomusicologi, vocologi, chirurghi della voce e quant'altro. Per cui si parla di voce declinata in tutte le sue manifestazioni. Per quanto riguarda il doppiaggio e la recitazione, non si parla di una lobby, assolutamente no. Mi sembra, Gerardo, non capiscono che non c'è sì, se uno ha un padre notaio, fa il notaio, per carità di Dio, non è perché ha avuto il padre notaio allora deve fare per forza quello, o c'è una lobby dei notai o degli ingegneri o dei medici. Si sbaglia sempre, si doppia in tutto il mondo, e è così, Gerardo, si doppia in tutto il mondo, anche in vari idiomi, in certe nazioni come in Cina, eccetera eccetera, sì, se non sbaglio, no? Non come in Italia, ma si doppia dappertutto. Dappertutto. Quando però esce un film, dire che la lobby, il nepotismo nel doppiaggio non ha alcun senso. Esatto. Perché sì, soltanto se si è bravi si riesce ad essere credibili, e quindi i committenti poi accettano. Se tu sai l'inglese, vedilo in inglese. Se tu leggi in inglese Shakespeare, leggilo in inglese. Nessuno ti proibisce adesso con eccetera. È un lavoro, il cinema è popolo, è la gente, è per tutti, è per tanti, e se tu sei costretto a leggere dei sottotitoli che tanto devono riassumere un concetto ben più ampio di quello che stanno dicendo in originale, e perdi anche quello, perdi l'immagine, o comunque perdi realmente il concetto se non sai la lingua perfettamente. Certo. E allora veramente se ne può parlare in eterno. L'inglese va studiato a scuola, il francese va studiato a scuola, non al cinema. Il cinema, certo, ti può aiutare adesso con i DVD, Blu-ray, mettere il doppio audio ti può aiutare nel parlato, e quello, ringraziando il cielo, c'è questa cosa che ci aiuta. Ma il doppiaggio non è una lobby, non proibiamo a nessuno di vedere i film in originale, ed è un gruppo di centinaia di persone, professioniste vere, di attori veri, non di doppiatori che non è, come dice giustamente il mio amico Gerardo Nicola, è il doppiatore, no? Sì. Quella è la... è Angelo Maggi. E Angelo Maggi lo sta raccontando bene a Roma, al Teatro Belli, andatelo a vedere perché è veramente uno spettacolo molto interessante che vi aprirà un po' di... allargherà i vostri confini un po' gretti, un po' chiusi. Però se rispetto a questo. Come no? Devi. No, rispondi volentieri. Cultrice, bisogna storicizzare il problema. Il problema a doppiaggio è nato prima della guerra e dopo la guerra, quando in Italia c'era un analfabetismo che sfiorava il 40%. Poi l'inglese nessuno lo conosceva, per cui è stato necessario ed il doppiaggio ha salvato il cinema italiano. Perché pensate, senza il doppiaggio, veramente le sale cinematografiche sarebbero andate deserte. Per cui anche gli stessi attori italiani che venivano doppiati dovrebbero ringraziare i loro colleghi doppiatori. Adesso è chiaro che le cose sono cambiate e forse qualche ragione ce l'ha pure l'interlocutrice. Sì, qualche sala in più in originale si potrebbe dare, si potrebbe, però si sa che sono quasi semi deserte poi. Il problema è quello, che già un film regge una sola settimana, un solo weekend, e qui si rischia che non regga neanche più quello, certo. Soprattutto i piccoli film. Quindi, insomma, più spazio al cinema italiano, questo sì, questo devono darcelo, come in Francia danno molto più spazio ai film, ai cinema francese, ai registi francesi, agli attori francesi, certo. In modo tale che poi, hai visto quanti ne arrivano in Italia di film francesi che dobbiamo doppiare, perché altrimenti non riuscireste, certo, a seguire neanche una parola, a meno che non siate madrelingua. Certo, certo. Mi arriva un messaggio molto divertente. Il professor Di Cola, negli anni di studio e ricerca sul mondo del doppiaggio, ha mai avuto modo di mettersi a leggio e doppiare? Ha una voce adatta ai personaggi come Albus Silente. Un abbraccio da Claudio, che mi sembra carino. Grazie. Sì, un amico, Giorgio Bassanelli Bisbal, me l'ha proposto, però ho evitato perché non è il mio mestiere, ognuno deve fare quello che sa fare e io non so se so fare il mio, ma vado avanti con la ricerca, che poi alla fine è la cosa che mi piace più fare. Grazie da Carmen per la tua risposta di prima, che parlava del doppiaggio. Grazie. Vi sento sempre lo stesso, resto vostra amica, ho solo una laurea in English, ma assolutamente Carmen, siamo prontissimi ad accettare qualsiasi tipo di confronto leale, certo, con tutto ciò che riguarda questa materia, almeno la materia della voce, che è profonda e importante. Ascoltiamoci qualche bel contributo che tu ci hai sottolineato, perché già oggi hanno arrivati dei messaggi, ma quando ascolteremo le voci storiche che hanno accompagnato le famiglie? Allora, ce n'ho veramente tanti. Allora, segnateveli questi nomi, perché sono importanti. Allora, Giulio Panicali, che doppia Tyrone Power in Sangue e Arena. Forse è stanca ad aspettare, forse è partita, forse mi ha dimenticato. Oh, questo non dovevi pensarlo. Ho perfino pensato... Sai la prima cosa che ho chiesto a mamma appena tornato? La figliuola di Petro Espinosa, con quelle gambette e quella faccetta buffa, si è mica per caso sposata? Oh! Che succede? Eccoci. Bellissimo. Mi porta indietro nel tempo proprio queste voci. Lei era voci. Dia Cristiani. Sì, lei era? Dia Cristiani. Dia Cristiani. Certo. Ma è un'altra grande. Anch'io mi perdo un po', devo dire la verità. Ti guardo come un uccellino nel suo nido che aspetta la mamma che gli porti da mangiare. È bellissimo. E il grande Panicali, questa voce. Panicali, che poi doppia tantissimi attori. Avevano una grande personalità, questi doppiatori, sì, attori, doppiatori di una volta. Magari variavano un po' meno la voce, a parte il grande Peppino Rinaldi, che aveva una versatilità pazzesca, gli altri però avevano una grande personalità. Quindi abbiamo nominato, sì, Emilio Cigoli. E adesso ce lo sentiamo, però. Adesso cominciamo, ecco. Andiamo proprio in ordine. Oh, andiamo in ordine. Questo era Giulio Panicali e lei era, mi hai detto? Dia Cristiani. Dia Cristiani, e lui era Tyrone Power. E allora ci sentiamo il grande Emilio Cigoli. Sentite le voci timbrate fino alla fine, che ti facciano capire i concetti delle parole, non come le fiction di adesso che finiscono senza che tu capisca che sta dicendo, o urlano o parlano sottovoce, tu te perdi tutte le finali perché non le sanno sostenere e non sanno dare l'intenzione fino alla fine. Questa è recitare, non è doppiare. Benissimo. E allora Emilio Cigoli, che doppia John Wayne in Ombre Rosse. Sentite, Miss Dallas, voi non avete parenti e neanche io ho più famiglia. Forse vi sembrerò un po' presuntuoso, ma vi ho osservato con quel bimbo in braccio, il bambino di quella signora. Avevate un'aria così buona. Insomma, io ho una piccola fattoria oltre la frontiera in un bel posto con alberi, erba, acqua. E lì vicino ho anche una casetta in legno costruita a mezzo. Un uomo ci può vivere lì. E anche una donna. Volete venire a starci con me? Io vado a vivere con lui, lì in quella casetta. Ma vedi, bellissimo. Poi era il modo anche di recitare loro americano, che era più arcaico, più antico, più pulito, certo. Era meno sporco. Poi c'è stato l'avvento dell'antieroe hollywoodiano in Dustin Hoffman, eccetera, ma ne parleremo in altre puntate di quel percorso lì. Però sentite l'evocazione della voce. Senti, cioè, a quel timbro, a quell'atmosfera, secondo te chi è la voce che ha risposto a Cigoli in sala di doppiaggio? Chi poteva essere? La Simoneschi? No, Tina Lattanzi. Tina Lattanzi. Osti, con quel birignao straordinario. Fantastico. Grandi attori, signori, parliamo di attori veramente straordinari. Era lì, non era una lobby, erano quei pochi che avevano in mano veramente. Andiamo alla Lattanzi, mi dice Alessia Navarro dall'altra parte che ce l'abbiamo. E allora sentitevi la Tina Lattanzi che doppia Greta Garbo in Maria Walewska. Voi dite di essere solo, ma dove accogliereste un amico? Nel vostro cuore è troppo pieno di voi. Nel vostro spirito è troppo pieno del mondo. E le vostre brame non sono degne dell'amicizia. E le vostre brame non sono degne dell'amicizia. Raddoppio. Scusa, ma devo fare un bravo a Alessia, perché è veramente stata brava a scegliere queste voci. Ma tu sei stato un ottimo Virgilio in tutto questo, Gerardo. Insomma, ci hai preso un po' per mano. Io ho un gruppo di lavoro straordinario con Alessia, con Damiano, con Gaia, con Valerio, Alessandro, eccetera. Poi tu ti sei fatto accompagnare da un'altra persona e dovremmo intervistare quanto prima. Non vuole, perché non vuole apparire. È già scappa dall'altra parte, capito Andrea? Se n'è andato. Ha paura che lo accalappiamo, lo portiamo di qua. E allora, Panicali, Cigoli, Tina Lattanzi. Mi sentirei un altro... un Gualtiero De Anio, un Mario Besesti che doppia Sydney Greenstreet in Casablanca. Benissimo. Però non c'è. Aspetta, no, un altro. Andiamo su Gualtiero De Angelis. Voglio sentire il papà del grande Mario De Angelis, nonché papà del compianto Vittorio De Angelis, che ci manca ancora. Ci manca tanto. Gualtiero De Angelis. Ti sanguina un labbro, George. Già. Un pugno come risposta ad una mia preghiera di poco fa. Oh, no, George. Io sono quella risposta. Per questo mi hanno mandato qua giù. Come sai il mio nome? Oh, so tutto di te. Ho seguito la tua vita fino da... Ma sei forse un indovino? Oh, no. Chi sei allora? Clarence Obody, A.S.C. Obody? A.S.C. Che cosa vuol dire A.S.C.? Angelo di seconda classe. Che film! La vita è meravigliosa! Guardatelo, quello non è soltanto un film che gli americani vedono ogni Natale, dobbiamo guardarlo tutti noi ogni Natale. La vita è meravigliosa, è bellissima. Lui era Gualtiero De Angelis, il resto? Corrado Racca. Corrado Racca era Clarence, l'angelo che deve mettere le ali. Esatto. Che film, ancora ci piango io alla fine quando si sente suonare quella campanellina e la bambina in braccio a Jimmy Stewart dice: che sai papà che quando suona una campanellina un angelo ha messo le ali? Lui fa: lo so, e ridono e vabbè, lasciamo stare ragazzi, mi si apre il cuore. Se poi apriamo il link di Cime Tempestose mi metto a piangere e ti abbraccio. E non è l'età, si piange a tutte le età. E questo era Gualtiero De Angelis, Gary Grant, Jimmy Stewart, Dean Martin. Quella voce pastosa, questa aria che aveva un po' anche Cesare Barbetti come seconda generazione dopo di lui, aveva quest'aria, Robert Redford, anche lui lo salutiamo, sarà sicuramente doppiando dei film meravigliosi lassù. E andrei da Lidia Simoneschi, che doppia Ingrid Bergman in Notorious. Sto facendo un po' da saltapicchio per il mio amico Valerio, per rendergli la vita un po' impossibile. Lidia Simoneschi che doppia Ingrid Bergman, prego. Si sta tanto bene qui, non usciamo per la cena, stiamo in casa. E per mangiare? Mangeremo qui, cucino io. Ma tu odi cucinare? Oh, certo che l'odio, caro. Bene, bene, bene. Vengo anch'io a vivere nella casetta, dice con Pino il Segugio. Un commento del professor Di Cola sui tempi celeri del doppiaggio di oggi, legati allo sviluppo della tecnologia e alle richieste del mercato cinematografico e televisivo. Questo mina la qualità del doppiaggio? Un po' sì. Ti però vorrei anch'io. Dimmi un qualcosa. Sì, tornare... sì, tornare indietro. Dobbiamo andare in pubblicità, però, vero? 46 adesso. E allora sì, per poi avventurarci nell'ultimo blocco insieme. Ma come ho detto alla Brancucci Family di prima, Gerardo, non so dove vivi costantemente. Pescara. Amore mio, vabbè, Pescara. Roma, Pescara c'è un'autostrada dritta per dritto. Sto in pensione, per cui... E allora, non stai in una pensione, stai in pensione, in che pensione è diverso. Dalla scuola. E allora vieni qui, così Andrea lo incastriamo e stavolta lo intervistiamo. Tra pochissimo, per gli ultimi 10 minuti insieme all'amico Gerardo Di Cole. Grazie. Questo viaggio meraviglioso, affascinante, romantico nel mondo della voce. A tra poco. Anatomy. Che bella puntata, grazie a Gerardo Di Cola, grazie di farci te, compagnia con la promessa di tornare. Io ho tantissimi messaggi, siete veramente tanti, io vi ringrazio perché state decretando un successo sperato, non diciamo insperato, perché quando abbiamo costruito questa trasmissione volevamo che diventasse così e ancora meglio, ovviamente vuole essere un punto di riferimento, anche tutorial fra un po' per l'impostazione della voce, per il public speaking, per l'addizione e per quant'altro, insomma la voce in tutte le sue declinazioni. Avremo fra poche puntate addirittura anche il ministro della pubblica istruzione, tanto agognato e tanto cercato, la ministra Stefania, molto attenta, dice: sì. Vengo, ma avete convinto, sì, sì. Basta, mi nominate sempre. E verrà, faremo una puntata molto interessante sul teatro nella scuola e lo studio della voce nella scuola. Hai visto mai? Riusciamo magari a fare... portando anche lo spettacolo di Angelo Maggi. Assolutamente, sì, quello è esplicativo, esplicativo. Chi doppiava Ubaldo Lai, il grande gagliaritano, Andrea? No, nessuno, si doppiava da solo. Ubaldo Lai faceva il tenente Sheridan... Faceva anche il doppiatore, sì, sì, certo. La Odi. Di? Odi. Lui era un membro della Odi, che era una concorrente della CDG. Della CD, quella famosa, ovviamente. Avvino, ma la tipa che parla del... Vabbè, questo... Se devo andare a teatro a vedere la meta, che far bietà a Ryanair. Vabbè, arrivano pure... arrivano cose simpatiche, noi le leggiamo, ovviamente, dei nostri amici. Continuiamo questo piccolo percorso. Abbiamo ancora pochi minuti. Mi dispiace non fare il collegamento con gli amici di tutti convocati, ma abbiamo pochissimo tempo. Poi ho Valerio oggi, che in tempo reale mi dà i risultati, però... mi raccomando, dopo di noi, i nostri amici di tutti convocati, non avete bisogno, certo, della mia voce che vi convinca a seguirli. E allora, eccoci qua, continuiamo questo percorso, abbiamo parlato tantissimo di Rosetta Calavetta e ascoltiamocela mentre doppia Marilyn Monroe. No! Cosa c'è, signorina? Perché mi fissa così? Mi succede sempre quando esco in pubblico. L'ho riconosciuto anch'io, la sua fotografia è su tutte le riviste. Ma che riviste? Le dispiace spostarsi un po', per favore. Sì, gli blocchi la visuale. Sta aspettando un segnale dal suo yacht. Il suo yacht? Ha 12 cabine. Questa è la mia amica Daphne. Ha studiato a Vassar. Dove ho studiato? Oppure a Bryn Mawr. Ho sentito una storia molto triste di una ragazza di Bryn Mawr. Fece la spia a una sua amica e la trovarono strangolata col suo stesso reggiseno. Oh, sì! Bisogna stare molto attente nella scelta delle amicizie. Signori, a qualcuno piace caldo? Gerardo, raccontami queste tre voci, una più bella dell'altra. Giuseppe Rinaldi, qualcuno dice che io sono proiettato verso questa voce, questo attore. Che sia il numero uno al mondo. Sono maniaco di Giuseppe Rinaldi, ma... Lo siamo tutti pazzi di lui. Soltanto un fatto storico. Però volevo sottolineare la voce di Pino Locchi. Sì, su Tony Curtis, mentre faceva questo Birignao. Ma chi, ma chi lo imitava? Ah, non lo so. Vittorio De Sica. Ah, è vero, è vero. Okay. Me lo rimetti un attimo, scusa, se non l'hai cancellato, Valerio. Ma guarda che ti devo sempre prendere in fallo. Fammi risentire, perché lei è straordinaria. Marilyn Monroe, senza quella voce, non avremmo amato Marilyn Monroe. Certo. Come non avremmo amato certo. John Wayne senza Cigoli. Mi dispiace. Certo. Sentiamo un attimo il momento dell'inizio. No! Questa, vabbè, lei... Signorina, perché mi fissa così? Mi succede sempre quando esco in pubblico. L'ho riconosciuto anch'io, la sua fotografia è su tutte le riviste. Ma che riviste? Le dispiace spostarsi un po', per favore. Sì, gli blocchi la visuale, sta aspettando un segnale dal suo yacht. Il suo io! Lì invece era un acuto Jack Lemmon. Questa è la mia amica Daphne, ha studiato a Vassa. Va bene, bellissimo. Se no, viene voglio, vado a casa e me lo rivedo tutto. Beh, qualcuno piace caldo, signori, se non avete visto. Certo. Mangiatevelo. Senti, a proposito di Pino Locchi, che adorabile persona. Un uomo alto, poco, bassissimo. Sì. Sì, lui diceva sempre quelle volte che l'ho incontrato, lui della Roma fino all'inverosimile, per cui mi diceva sempre, ecco, è arrivato il laziale, va, qua voce, ho detto, me puoi dire di tutto, amico mio, di tutto. Il piccolino dice pure a mia moglie, al buio so Sean Connery, ma quando accenna la luce, poi romanaccio, fino all'inverosimile anche lui e poi davanti alle zio, diventava una bestia, una persona sì, pazzesca. Purtroppo non ho avuto... No, guarda, di una simpatia, era piccolo e energico, un piccolo uomo, ma grande, grande in tutto. Certo. Ascoltiamocelo su Sean Connery, su Licenza di uccidere, magari dove mi dice Bond, James Bond. Ammiro il suo coraggio, miss. Trench, Silvio Trench. E io ammiro la sua fortuna, mister... Bond. James Bond. Eccolo là, è il mio sogno, è il mio sogno, certo. Un film di Bond, uno, non vi chiedo tanto, prima di finire la carriera, che venga un attore nuovo e magari riesca a soffiare il posto a Francesco Brando e togliergli un James Bond dannata, lo dico con grande simpatia ovviamente. Sì, magari gli attori italiani. Sì. E lo doppiamo noi in italiano, come era una volta. Vedi, lui apre, ma devo farli di capo e forza, beh, Gerardo. Hai capito? Tanto lui sta in pensione. È il problema, ci donna pure io poi dopo a Gerardo. Certo, no, no, per carità, io pure se devo dire, dico tutto quello che penso assolutamente. Chi doppia Connery? Niente, non lo doppia più nessuno, a parte non fa più film da tanti anni, Connery ormai è un signore novantenne. Sì. Per cui, ma voi dovete sentire in originale, essendo scozzese Sean Connery, era My Name is Bond, James Bond, con la S molto, moscentimo ben, molto bolognese. Bolognese. Esatto, perché lo scozzese ha questa S molto forte, per cui se lo senti in originale fai, oddio, e invece sentì quell'eleganza e l'eleganza e l'ironia che ci metteva certo, Pino Locchi, certo. Ripeto, è come il grande Lionello che ha reso grandissimo Woody Allen in tutta Europa, grazie al doppiaggio italiano, e lo dice anche il grande Woody Allen. A qualcuno piace caldo, film favoloso, voci favolose. Voice Anatomy, un punto di riferimento forte, rinuncio a tutto, a tutti, i punti stare un po'. Grazie Francesca, no, non rinunciare a tutti, no, ti facciamo compagnia finché possiamo, come a te e come a tutti gli altri. Senti, caro Gerardo, il tempo volge al termine, abbiamo un minuto per salutarci, se non sbaglio, vero Valerio, prima di dare la linea a tutti i convocati, strappandoti la promessa da buon pensionato, per cui sì, non puoi mettere scuse di avventure certo, galanti certo. In chissà quale altre parti del mondo. Tornerai qui quanto prima, adesso dopo ovviamente nel mese di aprile ci organizziamo, e perché siamo soltanto all'inizio, abbiamo soltanto iniziato questa bella galoppata. No, noi ringraziamo te. Preparati bene, cioè, tanto c'hai due libri, dobbiamo parlare di Shakespeare nel doppiaggio, di tante cose. Beh. Invitare qui ancora i grandi che ci sono e sono disponibili, e insieme a te ovviamente sarà un grazie, binomio grazie, di gran Pino. Lusso. Grazie davvero, grazie a Gerardo, a tutti gli ospiti che si sono avvicendati a questi microfoni, grazie a Radio 24 di dare voce a questa trasmissione e a tutte le altre trasmissioni che si alternano, a tutti i grandi colleghi, a voi la linea carissimi di tutti i convocati, io vado a casa e tanto lo so, anche stasera per me forse, ma è una gioia. Hasta altra domenica signori, Voice Anatomy!